Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'Expo è alle porte per 6 mesi. Parleremo, almeno questo è l'augurio, di cibo, di cultura del cibo, di come vincere la sfida di nutrire 7 miliardi di persone tendenti a 9 o anche 10. Ma l'Expo sarà anche l'opportunità di mettere alla prova un concentrato di tecnologie smart come forse non esistono di eguali, certamente non in Italia, in un tentativo di prefigurare quella che sarà la Smart City del futuro, o almeno una buona parte degli aspetti della Smart City del futuro. Ne parliamo con Guido Arnone, responsabile della Technological and Digital Innovation di Expo 2015. Buonasera Arnone. E buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, voi avete identificato, parlate di 5 strati di servizi, no? Perché poi la Smart City, quello è una questione di servizi, di nuovi servizi. Corretto, noi abbiamo identificato 5 strati di servizi in cui abbiamo raggruppato i servizi che verranno utilizzati sia da Expo che verranno offerti anche ai visitatori e ai partecipanti. Brevemente lo strato dell'energia, lo strato dell'ICT con tutte le soluzioni di telecomunicazione, la sicurezza, la safety, l'edutainment che è specifico di Expo e lo strato dei servizi più standard e generali. Ecco, proviamo a ripercorrerli un po' velocemente. In realtà di energia ci occuperemo specificamente più avanti, ma insomma lì fate una piccola smart grid. Che cos'è questo edutainment? Che cosa intendete? L'idea è di offrire delle soluzioni che permettono di spiegare quello che è il tema di Expo, ma in una maniera interattiva e divertente. Ad esempio attraverso dei totem interattivi che saranno installati all'interno del sito espositivo o dei muri elettronici che verranno utilizzati per mostrare i video, ma anche per mostrare attraverso applicativi contenuti tematici relativi al tema Expo. E ci sarà poi un applicativo che è già disponibile, interattivo per gli smartphone, perché dobbiamo ricordarci che questo è un Expo digitale, un Expo dove tutti gli utenti avranno uno smartphone e potranno quindi approfondire, certo, e interagire con l'Expo stesso. Ecco, diciamo che sono un po' delle prove generali di come la città intelligente dovrebbe comunicare con dei cittadini anche loro intelligenti, si spera, se no le due cose diciamo si tengono. Ecco, parliamo di Information Technology DCT, naturalmente il wifi lì ci sarà, ecco. Ci sarà e sarà aperto. Sarà gratis, sarà free, sarà disponibile per tutti e sarà chiaramente integrato in una rete a ultra larga banda in fibra ottica che verrà creata da uno dei nostri partner, in questo caso Telecom Italia, che sta installando circa 200 km di fibre ottiche che collegheranno tutti i padiglioni dei paesi partecipanti in una grossa, importante infrastruttura di telecomunicazioni. Che rimarrà, questa sì, senz'altro. Ah, questa sì è una delle cose che resterà. Che certamente l'Expo ci lascerà in eredità, speriamo poi di trovare il modo di utilizzarla bene. Tema sicurezza, avremo a che fare con milioni di persone, un viavai pazzesco e con i problemi che ci sono di questi tempi il tema della sicurezza è molto sentito. Esatto, per 20 milioni di visitatori nei 6 mesi, ma la cosa che è più sfidante è 250.000 persone nelle giornate di picco che dovranno essere gestite attraverso i sistemi di sicurezza. E su questo noi stiamo installando insieme ai partner una rete di sensori molto capillari, quindi di telecamere, di sensoristica, ma molto più importante abbiamo creato un centro di comando e controllo integrato con la città di Milano e con le forze dell'ordine che permetterà la gestione coordinata e integrata dell'evento Expo Milano 2015. Ecco, ma ci fa un esempio di come diciamo si passa dalla telecamera all'agente di polizia, per capirsi, perché sembra semplicemente un videocontrollo altrimenti. Ma la telecamera diciamo è il registro dell'immagine, quello che conta e che è più importante è che dietro questa registrazione di immagini ci sono dei software, degli applicativi che analizzano le immagini, analizzano le situazioni e permettono all'operatore di capire cosa stia succedendo, quindi capiscono assembramenti di folla, capiscono se c'è una persona in difficoltà in quanto si crea intorno a queste persone si creano intorno a delle persone che di fatto tipicamente si dispongono in cerchio, per esempio. Esatto. Sì. È molto importante ad esempio tutta questa sensoristica per la gestione degli accessi. Delle 250.000 persone giornate di picco chiaramente accederanno la maggior parte in mattinata utilizzando i mezzi di trasporto pubblico, quindi la gestione dei flussi dalle stazioni metropolitane alle stazioni dei treni verso quello che sono i nostri controlli accessi e quindi anche gli aspetti di gestione della sicurezza dei controlli accessi sono fondamentali. Capire, avere un intelligence, quindi avere una previsione di potenziali problemi, potenziali rischi è fondamentale per prevenirli. Quindi in pratica questa specie di intelligenza artificiale identifica le situazioni critiche e poi chiama in causa un operatore per decidere veramente che cosa fare in quel caso, no? Sostanzialmente screma. Esatto, ma non solo un operatore, anche più operatori. Certo. E questa è l'idea del coordinamento del centro, quindi mettere insieme le forze dell'ordine, mettere insieme la gestione operativa di Expo in un unico centro di decisione. Va bene, grazie Arnone, in bocca al lupo perché adesso comincia la partita vera. Sì, grazie e vi aspettiamo all'Expo. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.